apaghimi la luce. Chi è stato? Saluto al duce. A noi. Saluto al re. Paghimi un caffè. Vieni qui. Ondina si stacca dalla fila, va davanti alla maestra, le scappa da ridere ma si tiene. La maestra prende le trecce di Ondina e dà due tirate, dicendo che per punizione dovrà restare un'ora di più in classe. Di scatto Ondina alza la testa, dice che no, che non resterà un'ora di più in classe, anzi si volta e scappa via. Ondina si prese una sberla per questa sua indisciplina, ma ebbe la netta sensazione che la madre solidarizzasse con lei, perché le aveva fatto una strizzatina d'occhio. Strizzatina d'occhio, duttile segno d'intesa usato per generazioni dai membri della famiglia Peteani, utilizzata per indicare A. un assenso, che non deve essere evidente ad altri, B. che si dice una cosa per amor di quiete, ma in verità se ne pensa un'altra, C. per indurre alla pazienza e alla sopportazione familiari troppo impulsivi. In sostanza, la strizzatina d'occhio era usata tra i Peteani per indicare l'esistenza di un'altra realtà, accanto a quella che stava sotto gli occhi spalancati di tutti. La madre, Valentina Masini, detta Tina, frequentatrice assidua delle case degli antifascisti, conobbe in Boemia Antonio Peteán, vedovo e con 5 figli. Lei se ne innamorò e se lo sposò. Tina bisogna immaginarla in un aneddoto che si svolse sul sagrato della chiesa tra lei e un avvocato che stava cercando di imbrogliarla. La scena è questa. L'avvocato che se la dà a gambe mentre Valentina Masini lo rincorre brandendo un ombrello e prendendolo infine a ombrellate! Anche dopo il matrimonio, Tina volle mantenere il suo posto di lavoro come cuoca a Marienbad e così Tony dovette rientrare in Friuli per accudire i figli. Durante questa separazione, però, Tina conobbe un ufficiale e ne rimase incinta. In una delle sue lettere al marito, lei confessò l'accaduto con grande pentimento, ma con altrettanto grande determinazione annunciò che mai e poi mai lei avrebbe rinunciato alla sua creatura. E Tony? Tony accettò la piccola Ondina come se fosse sua. La riconobbe subito, dandole il suo cognome. E con lei andò sempre d'amore d'accordo, molto di più che con i suoi figli naturali. Il padre, il vecchio Tony, austriacante, cieco d'un occhio e con in testa il tipico berretto da operaio, sfoggiava curati favoriti. Due baffi con il ricciolo in perfetto stile, Franz Josef. Non è che lui si arrabbiasse, figuriamoci, ma autocanzonandosi inveiva contro la pasta asciutta formato spaghetti, mollando bare e tade quando intuiva il loro incombere in tavola, perché gli spaghetti erano il sigillo inequivocabile di un'italianità che lui proprio non digeriva. Ondina Peteani, nata sotto il fascismo il 26 aprile 1925 a Trieste, abita a Vermigliano, frazione di Ronchi dei Legionari, sul viale, dopo il passaggio a livello, sulla sinistra proprio l'ultima casa prima del Carso. Ondina marcia con i balilla fino a quando non va a lavorare e a 14 anni entra nel cantiere navale di Monfalcone come operaia addetta al tornio. Ondina è stata avvicinata per la prima volta nel 1942. Aveva appena 17 anni e la scena dell'avvicinamento è questa. Ondina in bicicletta che torna a casa dopo il lavoro lungo il viale di Vermigliano. Il passaggio a livello che come al solito le si chiude davanti. Ondina che scende dalla bici sbuffando, la inclina, si abbassa e con un po' di fatica inizia a passare sotto la stanga. Peteani! Si alza di scatto, sbatte la schiena sulla stanga, impreca fra i denti, fa retromarce voltandosi. I Fontanot! Cosa vogliono quei comunisti? Ma perché non passa sto treno? E adesso? Se ti vede qualcuno che parli con loro? Si dirà in giro che sei comunista! Ma proprio oggi le stanghe chiuse un'eternità e dovevi anche prenderti una botta in schiena, ma si può essere più svei a baucchi di così? Armido Fontanot e il fratello Vinicio si fermano di fianco a noi e ci fanno un cenno di saluto con la testa. Vinicio si avvicina di più e, parlando sottovoce ma con naturalezza, inizia a dirci che il fascismo è contro i lavoratori e fa solo gli interessi dei capitalisti e deve essere abbattuto per vivere liberi. Ci dice del soccorso rosso, che bisogna contribuire a questa forma di sussidio per aiutare le famiglie, i compagni caduti in sventura a causa del fascismo. Poi ci dice che è stata lanciata la parola. Lanciato dalla cellula comunista di Padova guidata da Eugenio, gli diciamo che non abbiamo sentito e lui ripete: è stata lanciata la parola d'ordine di organizzare le giovani in un movimento antifascista, clandestino, femminile, per la necessità di costruire una nuova società dove le donne faranno cose diverse, perché è ora di pensare alla personalità di una donna indipendentemente dal sesso e dalla razza. Io, anche se venivo da una famiglia non proprio conformista, avevo comunque letto i romanzetti per signorine delle biblioteche fasciste. Ah, ma bravi! E cos'è che dovrebbero mettersi a fare le donne, eh? No, sentite, a me mi va bene l'antifascismo, mi va bene il soccorso rosso, mi va bene tutto, ma sti discorsi qua no. Io proprio non li posso accettare, perché così voi altri comunisti distruggete la poesia della famiglia e la femminilità della donna. Vedi? Che è stupida come le altre. Stupida? Io? Ma come... come le altre poi? Ah, ma gliela faccio vedere io. Arremengo sti comunisti! Fine, primo capitolo. Secondo capitolo. Via Primo Maggio. Ondina è davanti alla casa dei Fontanot. Un'ombra dentro la casa sbircia dalla finestra. La porta si apre. Qualcuno la afferra per il braccio e la tira dentro. La casa è piena di gente. Oh, ma ci saranno più di 20 persone. Oh, ma c'è anche gente dalla Jugoslavia. Ci sono parecchi ragazzi però, eh? E anche adulti. E fanno festa. E i Fontanot. Sono loro che stanno suonando. Ecco perché li chiamano i bulgari. Un momento, fanno festa. Silenzio! Silenzio! Fate festa! E per di più, suonate musica slovena, cantate musica slovena, ballate musica slovena! Niente di personale, sia chiaro, ma il governo fascista ha proibito la cultura slovena. Qua! Se arrivano i fascisti, sono bastonate! Olio di ricino per tutti! Qua sono tutti infervorati per i discorsi di libertà e giustizia sociale di Vinicio. La Nina, la moglie di Vinicio, non mi molla il braccio e mi porta oltre, lungo un corridoio, poi su per le scale fino a un vano, situato in una specie di torretta della casa. Qua siamo solo donne. La Nina mi mette seduta e mi fa: adesso con l'Alma, l'Alma vi voda, facciamo scuola di comunismo! E chiude la porta. Dunque, in queste riunioni, noi che siamo donne controcorrente, dobbiamo imparare ad arrangiarci in tutti i modi per poter affermare, ma concretamente, la nostra possibilità di fare di tutto, proprio come gli uomini. E dunque, in queste riunioni, noi donne parleremo sì di calza e di cucina, ma anche di come si cambia una valvola, di come si avvita una lampadina o di come si usa un'arma. Vedete, ragazze, comunismo è essere donne emancipate. Non siamo più nell'Ottocento, ragazze, è il 1942. Qua è ora di cominciare a parlare di liberazione sociale e di pensare, noi prima di tutti, che la nostra personalità non ha niente a che vedere con il sesso e con la razza. E ora che la battaglia per i diritti delle donne diventi parte integrante della lotta per costruire una società più giusta. E quindi tutti, uomini, ma anche noi. Noi donne dobbiamo combattere per riscattarci da quello che subiamo sotto il fascismo. Altro che massaie o angeli del focolare. Ma noi ragazze andremo in giro a raccogliere fondi, medicinali, roba per il Soccorso Rosso. Ah, a proposito, nella cucina dei Fontanot, nella credenza, noi nasconderemo una cesta piena di medicinali per i partigiani sloveni. Perché per gli sloveni? Come perché per gli sloveni? Ondina! Perché in Italia, Nini, non ci sono ancora partigiani. Invece gli sloveni si sono già organizzati contro... tu sai chi? Contro chi? Contro... di lui! Ma lui chi? Lui! Mussolini! Insomma, dopo che voi sapete chi ha fatto chiudere le scuole slovene, ha proibito di parlare in sloveno perfino ai preti e ha fatto portare via mezzi paesi nei campi di detenzione, gli sloveni si sono ribellati. Ah sì? E hanno cominciato la resistenza armata. Per questo noi ci occuperemo dei giovani italiani che diserteranno. Ci troveremo con loro di notte nei luoghi di appuntamento. L'informeremo senza reticenze della durezza della vita dei boschi. Se loro si decideranno, li si farà attraversare i monti del Carso fino ai primi boschi. Là saranno presi in consegna dalle pattuglie partigiane slovene, inquadrati nei battaglioni, che in sloveno si chiamano cete, e avviati alle basi, dette caraole. Insomma, ragazze, la casa dei Fontanot dovrà diventare la casa dei banditi del Carso Triestino. In questa casa noi donne ci riuniremo. In questa casa noi donne organizzeremo la lotta armata. Ondina resta impietrita. È la prima volta che sento una donna parlare così. Ma l'alma vivoda, riesce a darle subito talmente tanto entusiasmo che Ondina decide di tornare da lei e di frequentare la sua scuola di comunismo. E il mercoledì successivo, al convegno della cellula comunista di Ronchi, erano presenti i compagni che componevano detta cellula. Da sinistra: Fontanot, Giovanni, detto Toni, Panetto, padre di Armido, Licio e Vinicio. Fontanot Armido, sua moglie Elisa. Fontanot Licio. Fontanot Vinicio, sua moglie Giovanna, detta Nina. Ribella Fontanot. E l'alma vivoda. Aprirono una clausola per accogliere Ondina come simpatizzante del PC, dandole un programma di lavoro: fare propaganda alle giovani locali. Io? Ondina Peteali, 17 anni, militante clandestina del Partito Comunista Italiano. Perché a noi ragazze è riservata la cultura delle signorinette? Perché a scuola ci insegnano solo cucina, cucito e puericultura? Perché ci fanno leggere solo i romanzetti per signorine delle biblioteche fasciste? Ma perché non ci dicono di leggere invece Jack London o I Miserabili di Victor Hugo? Perché i professori rispondono che bisogna evitare queste letture criminose che infondono solo pessimismo? Perché ci impongono le famose 3K, Kinder, Kuh e Kike? O perché io, operaia detta Altonio, prendo la metà di un operaio maschio con la stessa mansione? Perché dobbiamo tirare sempre dritto? O perché lui, il duce, ha sempre ragione? Perché ci fanno apparire bello, tanto bello, la vita piena di sensi della guerra? Bello! Vieni qua. Si può sapere cosa hai tanto da ridere con Alfonso? No, no, no, no. Da quando in qua a mia sorella sono tanto simpatici fascisti? No, Santina, non dire che lui è un fascista buono, perché guarda che un fascista e basta, la sua camicia non è meno nera degli altri, sai? Ascolta, ascolta, Santina, tu devi stare attenta, perché Alfonso va sempre in giro con l'Albergatti, e l'Albergatti sì che è un fascista cattivo. Ma questo vorrà dire qualcosa o no? No. Boh, ma allora ascolta, Santina, alla mamma viene un colpo se qualcuno le dice che fai l'amore con un fascista. Ma no, che non è innamorato di te. È l'ispettorato antipartigiano che ordina ai fascisti di corteggiare le ragazze. Lo fanno per rubare informazioni. Santina, vedi di perdere sto brutto vizio. Stai attenta. O fallo almeno per la mamma. Terzo capitolo. È il 1° maggio. Con Nina, Ribella e l'Alma ci siamo organizzate. Fare un po' le stupidine con i fascisti. Per non destare sospetti e riempire di timbrature tutti i manifesti murali del centro di Ronchi. Sui timbri c'è incisa la falce e il martello e la scritta Partito Comunista Italiano Comitato Litorale di Trieste. E poi, di notte, il lancio di manifestini in giro per tutto l'abitato, gettarli in tutti i cortili, nelle stalle, nei pollai. Ad un certo punto, alla Alma viene l'idea di metterli perfino nelle mani della statua della Madonna in piazza. I volantini, con le parole d'ordine contro il fascismo e l'invito finale, proletari di tutti i paesi, unitevi! Corriamo svelte in piazza. Arriviamo sotto la Santa Vergine Immacolata. Facciamo scalette e montiamo fino in cima, armeggiando come ladre, poi restiamo tutte e quattro a bocca aperta a guardare quel miracolo di Madonna comunista con tanto di bandiera rossa sopra il velo. E ci sembra di non esserci mai sentite così libere e che tutto in questo nostro paese è ancora possibile. Ma poi pensiamo ai fascisti, a cosa faranno quando se la vedranno davanti. E giù a ridere come delle matte, solo che guai a far rumore. Però più cerchiamo di non ridere e più ridiamo e ridiamo, e alla fine è quasi l'alba che siamo tutte e quattro con la ridariola, che sembriamo ubriache. Cerchiamo di non ridere e invece ridiamo, ridiamo come delle matte. Bastano pochi mesi e Ondina, 17 anni, sogna già di prendere la strada dei boschi. Scalpita, non vede l'ora di unirsi ai ribelli per diventare una vera combattente. E siccome, dopo le lezioni della Alma, aveva dimostrato di avere una solida formazione politica, un indomito coraggio e la preziosa capacità di agire e di tacere, appena ce ne sarebbe stato bisogno, i compagni le avrebbero dato la direttiva tanto attesa: andare in montagna per unirsi ai partigiani. Na Iuris, Na Iuris, Na Iuris. Scusate, io lo sbaglio. Io sto solo Scusate, io lo sloveno non ho capito. Ma io non capisco. Naiuris, Naiuris, Naiuris. Maggio 43. Si fa vivo sul terreno un gruppo di 5 partigiani, capitanati da Mario Caris, nome di battaglia Max. I 5 partigiani dicono di essere dei pesci fuor d'acqua nei battaglioni sloveni, per la non conoscenza della lingua. Dicono che non capiscono una parola di sloveno, che hanno fatto di tutto per impararlo, ma Ma impossibile, dai, una scarica di consonanti, un andrio di quell'altra. Senza offesa, eh. Insomma, dicono che qua deve nascere un distaccamento per accogliere tutti i partigiani italiani che combattono nelle unità slovene e che questo distaccamento sarà denominato la Garibaldi. Così. La Garibaldi, il primo gruppo partigiano formato interamente da italiani, si stabilisce a Clap e poi a Ronchi dei Legionari. L'arrivo inaspettato della Garibaldi suscita fermento nella zona e Fontanot e compagni decidono di prendere contatti con il gruppo. Incaricata di fare la staffetta fu... Natalia. E va la compagna Natalia su per i monti e per sentieri impervi aggrappandosi alle rocce, e va per il consueto scambio di informazioni e per portare da mangiare. Una sera ha l'ordine di restare nel rifugio per la notte con i compagni e di tornare in pianura il mattino successivo. La compagna Natalia e il compagno Cvetko dormono in una stanza. In un'altra adiacente il comandante Max dorme solo. Il mattino successivo, alle ore 5 circa, il comandante Max esce per fare i bisogni corporali. Aiuto! Siamo circondati! E nel medesimo istante entra nella stanza occupata dal Cvetko e dalla compagna Natalia. Il loro primo pensiero è di saltare dalla finestra, ma vedono che il comandante Max li segue. Pensano alla sua posizione politica e gli lasciano il passo. Poi fanno per seguirlo. Fermi! Mani in alto, sparo! Nella stanza restano il compagno Cvetko e la compagna Natalia. Ad un certo punto al Cvetko viene l'idea di far fuggire la compagna, anche se con il sacrificio della sua vita. Questo episodio, storicamente documentato, è la prova di come i giovani partigiani, anche se con strategie di guerriglia improvvisate, sono riusciti più volte a imporsi sul nemico fascista, unicamente grazie alla loro astuzia. La scena in questione si svolse come segue. Il Cvetko finge un incontrollabile mal di ventre e si mette in atto di fare i bisogni corporali, avvisando gli astanti dell'imminente scoppio di un ordigno viscerale. Il carabiniere inorridisce, disgustato. Allora il Cvetko gli dice di passare nella camera adiacente, dove, volendo, può benissimo controllare. E per favore, di portare di là anche la fanciulla. Il carabiniere esegue, malgrado la compagna vuole opporsi al grido di «Uniti, anche nel bisogno!». Il carabiniere, messosi alla porta della stanza dal Cvetko occupata, può benissimo controllare entrambi. Ma un momento! Il Cvetko vede che il carabiniere ha l'attenzione puntata solo verso la compagna. In un lampo tira sui calzoni e fa un volo dalla finestra. Il carabiniere beffato bestemmia, spara due colpi e lo insegue nel volo. Non vista, grazie a quel diversivo, la compagna Natalia riesce a scappare dalla cucina, saltando dalla finestra, e a mettersi in salvo con l'aiuto delle donne del rione. Tutto merito del Cvetko. Giovanni Cvetko. Al Cvetko era venuta l'idea di far fuggire la compagna, anche se con il sacrificio della sua vita. E infatti lui sapeva a cosa sarebbe andato incontro. Il carabiniere beffato sparò due colpi e lo inseguì nel volo. In un attimo arrivarono anche due squadristi. Erano tutti sopra di lui, lo legarono e lo condussero in caserma. Il Cvetko fu arrestato. Ma grazie al suo sacrificio, il comandante Max e la compagna Natalia si erano salvati. Si chiamava Giovanni Fiori, e nel dopoguerra mise per iscritto questi fatti in un rapporto che consegnò al suo ex comandante. Li scrisse per noi, perché restassero a futura memoria. Quarto capitolo. Quella retata in cui il Cvetko viene arrestato e Ondina riesce a salvarsi per miracolo è il segnale che qualcuno del loro gruppo è diventato un collaborazionista dei fascisti, una spia. E infatti il giorno dopo, in un agguato, viene uccisa l'Alma Vivoda, la maestra di comunismo che aveva tanto entusiasmato Ondina. E proprio quel giorno Ondina aveva fissato un appuntamento con l'Alma, al pomeriggio, alla rotonda del boschetto. Ma Ondina arrivò tardi e naturalmente non la trovò. Pochi giorni dopo avviene un'altra retata a Ronchi e a Monfalcone, in cui vengono portate via 3 corriere di arrestati, praticamente tutta Vermigliano. E in carcere vengono rinchiusi anche i bambini. Questo era un criterio dell'ispettorato fascista di pubblica sicurezza, perché i bambini potevano far venire allo scoperto i partigiani. In quel giugno 43 finiscono in carcere insieme agli altri tutti i compagni della cellula comunista di Ronchi, tutta la famiglia Fontanot e tutta la famiglia Peteani, Ondina compresa. Erano stati dei colpi durissimi per il movimento clandestino e bisognava capire al più presto chi era la spia. C'era stata quella prima retata in cui Ondina si era salvata per miracolo, poi l'agguato alla Alma con cui Ondina doveva incontrarsi proprio quel giorno, il fatto che Ondina, sua sorella Santina e sua mamma erano state arrestate il 27 giugno e l'indomani c'era stata la seconda retata, quella in cui avevano portato via mezzo paese. Sempre lei. C'era sempre lei di mezzo tutte le volte. E i sospetti furono immediati. Era stata Ondina. Ondina era la spia. Fu un colpo terribile per tutti. Non riuscivano a credere che proprio Ondina li avesse denunciati. Vinicio, mentre i fascisti gli strappavano le unghie sotto interrogatorio, si chiedeva com'era possibile che la responsabile di quelle torture fosse proprio lei. Durante la detenzione, nonostante avessero questi sospetti su Ondina, nessuno l'accusò apertamente di avere tradito. Ma Ondina era abbattuta. Sentiva il peso insopportabile di quei sospetti, ma soprattutto diffidava di sua madre e di sua sorella, perché soltanto qualcuno della famiglia Peteani poteva essere la spia. Sua sorella Santina era avvelenata per la detenzione e tutte le privazioni che era costretta a subire. Sua madre era angosciata perché si chiedeva continuamente quale delle sue figlie avesse tradito, perché anche lei sapeva che soltanto qualcuno della famiglia Peteani poteva essere la spia. Era stata fatta una riunione clandestina a casa Peteani, questo lei se lo ricordava bene. Si erano dette cose molto importanti e ad un certo punto c'era stato il caos con gli arresti e tutto. Qualcuno aveva parlato. Ma chi? Chi c'era in casa quella sera? Ondina. L'avevano vista tutti. Ma lei, la madre, si chiedeva continuamente quella sera dov'era Santina? Era in casa? Santina. Rimasero chiusi in carcere per più di 40 giorni, compreso l'8 settembre, giorno dell'armistizio, tutti avvelenati dalla diffidenza reciproca. Il 10 settembre vennero liberati dalla folla che li tirò letteralmente fuori dalla galera e Ondina, che era ricercata dai suoi stessi compagni, invece di scappare si recò da loro sul Carso per cercare di chiarire la sua situazione. Ma fu sua madre a salvarla. Fu sua madre a dire ai compagni che in casa quella sera c'era anche l'altra sua figlia, Santina, la più piccola, che aveva un brutto vizio, sì, insomma, che frequentava questa persona, un fascista. Fu sua madre a dire ai compagni che Santina era... Non posso andare più avanti, perché ho già detto tanto. Quinto capitolo. Intanto la guerra avanza e dopo l'8 settembre nella zona arrivano i nazisti. È il caos e Ondina è di nuovo travolta dal tumulto dei fatti. Dopo la scarcerazione, il comando partigiano impartisce l'ordine a Vinicio Fontanot, nome di battaglia Petronio, di scendere a Ronchi per reclutare largamente fra i compagni. Anche il comitato d'azione del cantiere navale decide. E 1500 operai, ancora vestiti con il terlist da lavoro, si avviano in colonna verso il centro di smistamento. E Ondina è di nuovo con loro. Sono la Brigata Proletaria e per divisa portano la tuta blu. Lungo il cammino, altri giovani del luogo si uniscono alla colonna degli operai, insieme a uomini e donne di Ronchi, Monfalcone, Staranzano, Re di Puglia e altre frazioni. Tutti verso la meta prestabilita. Poi anche numerosi ex militari provenienti dal confine si uniscono e la colonna continua a crescere paese dopo paese. Nella notte arrivano al centro di smistamento, vengono inquadrati e si costituisce ufficialmente la Brigata Proletaria Triestina. La Proletaria viene strutturata su 6 battaglioni di circa 300 uomini ciascuno. Ondina è inquadrata nel 3° battaglione, comandato da Vinicio Fontana, Petronio. Ma incombe un pericolo mortale. Fortissime colonne tedesche muovono dall'Alto Friuli verso il mare, verso il cuore nevralgico dell'Adriatische Kunstland. Si combatte! No, no, no! Come si combatte? Un momento! La Brigata Proletaria è costituita da uomini e donne coscienti, pieni di entusiasmo, ma è l'esperienza di guerra che difetta! Dall'altra parte, invece, i tedeschi sono un esercito che per di più ha interessi vitali da difendere in questa zona, perché le vie di comunicazione per la Germania passano per la Valle dell'Isonzo, per Trieste, per Lubiana. Il 12 settembre è la battaglia di Gorizia. Alle ore 5 del mattino i nazisti attaccano in massa con un intenso bombardamento di artiglieria e di mortai. Poi compaiono i carri armati ed infine le fanterie. I combattimenti sono sanguinosi. Per 5-6 volte i nazisti attaccano, ma vengono respinti. Allora i tedeschi gettano nella mischia il grosso delle forze e ricorrono all'aviazione per bombardare le postazioni della Proletaria. I proletari resistono, ma Gorizia è persa. Cede anche il caposaldo del 3° battaglione, quello di Ondina e di Vinicio. Gli operai continuano a combattere, ma alla fine solo pochissimi riescono a porsi in salvo. Sul campo rimangono i cadaveri di 256 operai di Monfalcone e 192 operai di Ronchi. Il 3° battaglione è travolto, fatto a pezzi. Per evitare la completa distruzione, le forze superstiti della Proletaria si sciolgono in 100 rivoli. Ondina allora entra nel battaglione triestino d'assalto, come addetta ai collegamenti. questo capitolo. Intanto, aumenta il numero di coloro che osteggiano l'occupazione nazista e le sue imposizioni, e senza quasi accorgerci, i gruppi di partigiani crescono di giorno in giorno, e mentre io, per raggiungerli nei loro rifugi, vado su e giù per i monti del Carso, tra mille pericoli, con rivoltelle nascoste nei capelli e rischiando più volte di essere arrestata, nel battaglione arriva una nuova recluta. Si dà il nome di battaglia di Blechi. Costui si dimostra subito uomo di fervida fantasia e ottimo organizzatore, tanto che il comando del battaglione decide di affidargli la direzione dell'intendenza Montes. Blechi si mette subito al lavoro e organizza anche una rete di porta ordini per i collegamenti, mobilitando una quarantina di giovani ragazzi. Insomma, tutto fa credere che finalmente l'organizzazione fili benissimo. E Blechi, lui diventa un dio. E poi, a lungo andare, Blechi cominciò a montarsi un po' troppo la testa e pensarono di sostituirlo. Già l'indomani, Walter Gerlaschi, Blechi, viene visto in giro, vestito da SS. Il battaglione comincia ad essere inseguito ovunque dal nemico, che guidato dal traditore Gerlaschi può sapere tutti i punti in cui i partigiani hanno le basi. I tedeschi, sempre guidati da Blechi, portano distruzione e lutto tra la popolazione inerme. Le 40 ragazze, organizzate in precedenza dallo stesso Blechi, finiscono tutte nei campi di concentramento in Germania. Una cinquantina di famiglie di Ronchi e Monfalcone assistono alla deportazione dei loro familiari, portandosi davanti al cancello dei cantieri navali in testa alle SS il traditore Addita, i compagni che lavorano per il Movimento Popolare di Liberazione, facendoli arrestare. Il 17 gennaio è la strage di Castagnevizza, incendio dell'abitato, muoiono 12 persone. Il 20 gennaio è la strage di Novavilla, morte tra le fiamme di due famiglie, arresto di 20 persone, e anche in questo eccidio ci sono le mani di Blechi. La liquidazione della spia è necessaria. E la decisione è stata presa. Inviare due compagni, scelti fra i migliori, per doti particolari di coraggio e sangue freddo, con il compito preciso di far fuori Blechi. Non dovranno tornare al battaglione, questo è un ordine, fino a quando non avranno portato a termine l'azione. Costi quel che costi, o lui o voi, questo e l'ordine. Il compito è stato affidato al capo plotone Egone Settomini, nome di battaglia Stecchi, e alla combattente Ondina Peteani, nome di battaglia Natalia. E in un tardo pomeriggio, fuori dall'osteria, lungo il viale di Vermigliano, uffa, sto Blechi se proprio furbo, sei giorni che lo cerchiamo ancora niente, non se arriva a trovarlo, uffa, no, dovemo resistere, svelta Ondina, torna a nasconderti che prima o dopo qualcosa deve succedere, avanti. Ah, e voi mi raccomando, siti come pesci, eh, mi metto qua, sitta, sitta. Heil Hitler! Ostrega, ma è proprio lui, è il famigerato Blechi! Duce a noi! Svelta Ondina, corri a avvisare Stecchi che è il momento buono di farlo secco! Che mi sentì anche voi altri? Ma che la faccio vedere ben me? E il Blacky è un osso duro, sape? E poi, mi sono un mago dei travestimenti. Stai a vedere cosa che non che combino a sti banditi. Stecchi, stecchi, vien fora, presto! Oh, streghetta, sto molo quando che il servi non se lo trova mai. Stecchi, stecchi, cosa nasci? Chi sei che mi chiamo? Già, stecchi! Ondina! No, volevo dire Natalia, perché Ondina gli era il nome... No, volevo dire Ondina, perché Ondina, insomma, stecchi! Oh, sì, sì, sì, dimmi. Allora, volevo dirti che l'ho visto. Cosa? Sì, sì, l'ho visto. Ma dove? Fuori dell'osteria. Oh, bom, bom, bom, bom, bom! Allora, parto in quarta per vendicare sto maledetto traditor del popolo! Sì, buona fortuna, stecchi. Mandi Ondina! No, volevo dire mandi Natalia, perché Natalia era il nome di battaglia. Oh, gli era Ondina, gli era insomma, stecchi! Oh, sì, sì, sì, sì! Eccomi, eccomi, eccomi, eccomi! Eccomi, eccomi, eccomi, eccomi! Eccomi, eccomi, eccomi! Eccomi! Ho corso più veloce di una saetta, ma... Ah, adesso Blacky, neanca l'ombra! Qua, non c'è. Qua, non c'è neanca. Oh, stregheta, te vuol vedere che me lo son fatto scampare? Muove Maria, mo piena di grazia. Oh, un prete! Mo sia santificato il tuo nome. Lui sicuro che sei della parte di noi partigiani. Mo in secola secolarum, mo amen. La me scusi, santità. Mo mi dica, giovinotto. Mo sia lodato Gesù Cristo innanzitutto. Beh, sì, buon dì. Mo come buon dì? Mo devi dire sempre sia lodato. Mo giovinotto, ma non sarai mica un comunista, infedele, bruciapreti! Un comunista, mi? No, no, no, no, no! Beh, veramente... Da, insomma, volevo solo domandarvi se lei, sua santità, l'aga per caso visto un tipo tracotante col muso de traditore infame. Ma intendi dire un comunista? Ma che comunista? Intendo dire quel traditore maledetto de Blacky. Blacky? Mo allora io... Non ho visto nessuno. Mo che poi bisognerebbe vedere, giovinotto, all'occhio dell'altissimo. Mo chi è più traditore, mo c'è il Blacky o un comunista? Sì, sì, sì, devo andare, arrivederla, grazie. Mo ci ha lodato Gesù Cristo, ma sì, sì, arrivederla, grazie. Ah, che visto? E che si casca come un pero. Ah, mammi, che ne so una più del diavolo. Stai a vedere, cosa che non mi invento sto giro. Stecchi, stecchi, vien fora. Oh, chissà se sarà arrivato a sfarlo secco. Sta missione la par proprio impossibile. Oh, un vecchio. Signor, come la sta? Mal, putella, mal. Oh, su, su con la vita. No, no, putella. Lasciami morir. Oh, pecca. E mica pensavo di aiutarla. Aiutarmi? Beh, se te avessi qualche scheo. Ah, qualche scheo. L'aspetti qua che vardo. Ma questo del maledetto Blacky, non dei suoi famigerati travestimenti. Svelta, Ondina, trova una scusa per chiamare Stecchi. Signor? Sì, putella? Mi scarsellano con niente, ma... un compagno! Un compagno? Oh, no, no, no, no, no, volevo dire un amico. Che se pien, pien de schè. Benissimo, benissimo, putella. Corri svelta a chiamarlo, dai. Ah, cosa la metto al culo? Che si sta? Che te ha toccato il culo, se lo becco lo coppo! Bom, bom, lasciamo perdere. E lo aspetti qua, non la si stia a muovere. Va bene, putella, va, va! Stecchi, stecchi! Che avevi visto? La che si cascata anche la come una pera cotta! Adesso arriva quell'altro, quel Basualde Stecchi, furbo come un scagno. Stai a vedere, che sto giro, che guadagno anche qualche scheo. Ciò, ma te sei sicura che sia lui? Sicuro che son sicura. Ma mi me pare un vecchio. Oh, signor benedetto Stecchi, il se travestito. Ah, bon bon, se ti dici ti, allora vado. Non mi scusi, signor. Sì? Mi ho detto la compagna Ondina. No, volevo dirla amica Ondina. No, che veramente la si chiama Natalia. Insomma, Stecchi. vecchi. Sì, sì, sì. Maledetto traditore del popolo. Ciapa, ciapa, ciapa, ciapa. Oh, perdono, perdono. Ma che perdono? Ciapa, ciapa, ciapa, ciapa. Muoio. Andina, compagni, giustizia è fatta. Andina, beh, non volevo dire Natalia. Giustizia è fatta. Stecchi, bravo. Ora avvisare altri. Settimo capitolo. Quattro mesi dopo, alla fine del maggio 44, Ondina viene arrestata e finisce nell'elenco di quelle che devono essere deportate. Psst, vada via contenta, le sussurra l'interprete, che qui stanno accadendo davvero cose molto brutte. Meglio via, lontano di qui, che in risiera. Sì, meglio via che in risiera. Ondina partì dunque il 31 maggio 44 nei vagoni bestiame alla volta di Auschwitz. E durante il viaggio erano tutte allegre, chiacchierone, specie loro, le più giovani, perché era meglio andare via che in risiera. Ondina si arrampica fino all'alto finestrino e intravede una desolata pianura appestata da un odore nauseante. Ragazzi, ma staranno solo bruciando immondizie. Poi comincia a vedere i primi lager. Durante il viaggio Ondina aveva intravisto prigionieri al lavoro sulle ferrovie ed erano vestiti con la tipica zebra. Qui invece nei campi la gente ha vestiti variopinti. Ragazzi, ci lasceranno tenere i nostri vestiti. Siccome è domenica pomeriggio, c'è anche un'orchestrina che suona. Ragazze, si potrà anche ballare. Arrivano alla stazione e le fanno discendere. Ci hanno messo il numero e per noi la vita è cambiata. Numero 81.672. Eravamo chiuse in una baracca, da una parte italiane, dall'altra cittadine sovietiche. Un giorno mi viene vicino una compagna ucraina e mi chiede che giorno è. L'8 marzo. Quel giorno abbiamo salutato l'8 marzo così. Tutte, sottovoce, abbiamo intonato un inno che si cantava insieme. Finirà presto la guerra. Ci vedranno in questo stato e ci porteranno via con gli aerei. Avranno tutte le cure per noi ridotte in queste condizioni. Numero 81.672. 19 anni. Deportata ad Auschwitz. Prigioniera politica. Personalmente, io non ho vissuto la gioia della liberazione. Mi trovavo in quei giorni assieme a una babele di relitti umani a più di 1000 chilometri di distanza. Ero sopravvissuta ad Auschwitz, ma irrimediabilmente provata nel fisico e brutalizzata nella mente, né più né meno che tutti i reduci da quell'orrore d'inferno. Spesso mi chiedo come, personalmente, io ne sia uscita viva. E la ragione, puntualmente, mi riporta all'unica risposta possibile. Resistenza. Resistenza, sinonimo del nostro irrefrenabile bisogno di libertà. Noi giovani ci eravamo schierati, avevamo deciso da che parte stare e oltre ad un ideale forte, quello che inconsapevolmente ci aveva aiutati era essere straordinariamente felici. Un rigoglioso altruismo ci aveva uniti nella consapevolezza. Non era incoscienza, ma entusiasmo. Era un grande entusiasmo perché eravamo profondamente convinti, tutti, uomini e donne, di combattere per un mondo migliore. Resistenza. Ostinatamente, ora e sempre, resistenza. Perché è bello vivere liberi.